Componimento 168° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Amor mi manda quel dolce pensero che secretario antico è fra noi due, e mi conforta e dice che non fue mai come or presto a quel ch'io bramo e spero. Io, che talor menzogna e talor vero ho ritrovato le parole sue, non so s'il creda e vivomi intra due, né sì né no nel cor mi sona intero. In questa passa il tempo e nello specchio mi veggio andar ver la stagion contraria a sua impromessa ed alla mia speranza. Or sia che pò, già sol io non invecchio, già per etate il mio desir non varia, ben temo il viver breve che n'avanza. Fine del componimento.